Salva Danaio. Sì, monetine, però sarebbe davvero dura, ancora più dura di quello che è attualmente se il nostro salario venisse pagato così. 7 minuti dopo le 12, buongiorno da Irene Zerbini. Si spinge molto sul lavoro flessibile, ma ci sono molte pressioni che tengono i lavoratori in qualche modo non solo in situazione di incertezza sulla durata del contratto dell'occupazione, ma anche sulla possibilità di ottenere un trattamento economico più favorevole o addirittura adeguato a quello che si fa. Durante la crisi, conclamata o reale che sia, è giusto tenersi stretto ciò che si ha e non bussare mai a quella porta per chiedere un aumento? E se lo si fa, su quali leve bisogna fare gioco? Come motivare la richiesta di un aumento salariale? Noi vogliamo sapere da voi, e se in controtendenza a quanto si scrive, a quanto si dice, forse nella vostra esperienza personale avete avuto successo nel chiederlo questo famoso incremento di salario, o se si è siete imprenditori, se vi è capitato recentemente, anche nei tempi di crisi, diciamo così dopo il 2008, di concederlo e di concederlo addirittura volentieri questo aumento al tale o alla tale dipendente che avete, e perché? Vi è piaciuto come si è posta? Vi sono piaciuti semplicemente i risultati? È stata una questione psicologica? Avevate paura che scappasse alla concorrenza? Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a concederlo? Raccontate le vostre esperienze all'800 24 00 24. Questo è il tema di oggi. Se volete invece scrivere un SMS, 349 238 6666. Intanto, qual è l'andamento delle retribuzioni in Italia? Aumentano e con quale velocità? Sono in grado di reggere il peso dell'inflazione? Manteniamo lo stesso potere d'acquisto? Tutte domande che giro a un esperto, che ringrazio per la sua presenza, consulente senior di OD&M Consulting, che è una società che si occupa di studi proprio sulle retribuzioni in Italia. Saluto Andrea Panzeri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Secondo i dati Istat, le retribuzioni di maggio, le ultime monitorate, erano ferme. Su aprile salgono dell'1,4% su base annua, cioè non tengono nemmeno il passo dell'inflazione. In questo clima come si può pensare di chiedere un aumento? Ci dica qualcosa di più, crescono tutte allo stesso modo, c'è qualche categoria che fa eccezione? Allora, sì, noi conduciamo rilevazioni sul mercato delle retribuzioni da ormai una decina d'anni, ed è ormai più di un anno che siamo chiamati a dare notizie non positive rispetto a un mercato delle retribuzioni che si muove in maniera lenta, si muove poco. Noi lavoriamo sulla base di osservazioni che nell'ultimo anno, quindi negli ultimi 12 mesi, ci dicono qualcosa di molto simile a quello che dice Istat, cioè retribuzioni che si muovono all'incirca dell'1% per le categorie dei quadri, degli impiegati, degli operai, mentre abbiamo un movimento un po' più significativo, un po' più vivace, un segnale di vivacità per quel che riguarda la popolazione dei dirigenti, dove abbiamo un valore per l'ultimo anno tendenziale di più 3,2%. I dirigenti. Esatto. Davide Cefis, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Perché ho introdotto questo ospite ora, lui di professione fa il headhunter, cioè va in giro a cercarli questi dirigenti. Per chi lavora, Davide? Lavoro per una società internazionale di executive search, appunto di Edante, che si chiama Eric Salmon & Partner, una società che ha sedi in tutta Europa, ovviamente anche in Italia, Milano e Roma. Il nostro ruolo è di assistere le organizzazioni, le imprese, a reclutare, a individuare, a selezionare e a reclutare i dirigenti a seconda ovviamente delle varie necessità. E c'è crisi anche nel suo di settore, Davide? Il tema è un tema, sì, il tema è della domanda, nel senso che in questo periodo, in questi periodi, ovviamente l'offerta di dirigenti, di figure dirigenziali molto competenti, preparate, supera di gran lunga la domanda da parte delle imprese di reclutare, di ricoprire determinate posizioni. E quindi nel braccio di ferro, diciamo così, della contrattazione, anche un dirigente, anche quello che sta al vertice della piramide salariale in un'azienda, oggi spunta qualcosa di meno che qualche anno fa, è corretto? Certo, sì, diciamo che il potere negoziale, poi ovviamente bisogna vedere caso da caso, però generalmente devo dire che il potere negoziale è ovviamente più indebolito, tenuto conto che ci sono anche molte figure taci con esperienza che oggi sono sul mercato e quindi più facilmente contendibili. Eppure è giusto continuare ad avere, non solo dirigenti naturalmente, ma a livello di dipendenti, un atteggiamento remissivo, o sarebbe bene esaltare non solo le proprie capacità al fine di ottenere l'aumento, ma al fine di ottenere una soddisfazione complessiva nel mondo del lavoro? Saluto anche il terzo dei nostri ospiti, Domenico De Masi, sociologo del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. E lei che consigli si sente di dare di questi tempi? Meglio anzi offrirsi per un taglio del salario, come qualcuno ci sta scrivendo via SMS, cioè rendersi disponibili per una riduzione di quanto viene dato in busta paga? Qui parliamo anche naturalmente di lavori atipici, perché se consideriamo le cifre che ci dicono che sono in realtà l'81% delle nuove assunzioni sono a tempo determinato, quindi solo il 18,9% degli occupati o di coloro che hanno avuto un contratto nel 2011 ha avuto un contratto a tempo indeterminato, è chiaro che quando diciamo salario parliamo di retribuzione, a volte addirittura pagamenti in partita IVA, ci sono delle forme insomma di concessione degli emolumenti che sfiorano la fantasia più incredibile. Quindi a fronte di questa situazione capita spesso di sentirsi dire tieniti stretto quel lavoro che hai perché sei già un fortunato ad averlo. Non essere troppo arrogante, non far sentire che avresti altre esigenze. Questi sono consigli che lei da sociologo del lavoro si sente di sottoscrivere. Ma è chiaro che il gioco della domanda e dell'offerta, il gioco del mercato del lavoro fa sì che quando molti vogliono lavorare e pochi sono i posti disponibili, chi offre lavoro ha il coltello dalla parte del manico e quindi può pagare poco quello che in altre situazioni pagherebbe molto di più. Però abbiamo ascoltato delle cifre molto significative. Mettiamoci nei panni di un impiegato della Fiat. Beh, sapendo che il suo salario forse è aumentato dell'1%, mentre quello dei suoi dirigenti è aumentato del 3,2%, cioè 300 volte più del suo, sapendo che Marchionne guadagna quando 1170 operai, come fa a non chiedere un aumento salariale? Come fa a non mettere in gioco la sua forza contrattuale per ottenere di più? Tutto sommato da questo poi dipende anche il successo del capitalismo, cioè la forza di chiedere e la forza di resistere o di dare sono la base della dinamica capitalistica. Se i dipendenti non chiedessero sempre di più, probabilmente i datori di lavoro smetterebbero di aumentare le retribuzioni e questo farebbe ristagnare il consumo. Se però i dipendenti fossero eccessivi nella richiesta, questo scoraggerebbe gli imprenditori da fare imprese. Tutto è però, nella dinamica. Scusi De Masi, sì. Lei ha citato però una dinamica, una dialettica da fabbrica, che sì. Non è più in Italia la situazione della maggior parte di coloro anche che lavorano, perché con un tessuto sociale imprenditoriale fatto di piccole imprese, in realtà la situazione è quella di dipendenti di imprese con meno di 15 addetti e in questo caso i rapporti cambiano moltissimo, anche quelli che lei ha citato tra l'amministratore delegato e l'operaio in catena di montaggio. A fronte delle cifre che già abbiamo citato, vogliamo ricordare anche che in Italia mancano, per esempio, 147.000 posti di lavoro secondo la Confartigianato. Cioè sono introvabili panettieri, sarti, falegnami, camerieri, baristi, muratori. Cioè ci sono ancora figure professionali che nonostante la crisi non si riescono a trovare. Se secondo lei, comunque, quando si parla di soddisfazione del lavoratore e un interesse solo personale del singolo, immaginiamolo che lavori all'interno di questa piccola azienda, o forse concedere qualcosa di più anche a livello salariale fa sì che ci sia una maggiore fidelizzazione, per esempio, una maggiore motivazione, non so. Certo, guardi, nell'epoca in cui Marx scriveva Il Capitale, nella metà dell'Ottocento, nella città più industrializzata del mondo, cioè a Manchester, il 94% dei lavoratori erano lavoratori manuali, appunto da catena di montaggio. E oggi? Siamo noi oggi. Oggi il 70% dei lavoratori in Italia, il 72% negli Stati Uniti, sono lavoratori intellettuali, come me, come lei, come tutti noi che stiamo discutendo, dall'impiegato al manager, al professionista, all'artista, allo scienziato, 70%. E quindi vogliono le stesse cose i lavoratori di oggi, secondo lei, di quelli della catena di montaggio? Assolutamente no. Di tempi moderni di Charlie Chaplin. E basta il salario per renderli soddisfatti? Il lavoratore della catena di montaggio veniva gestito soprattutto con il controllo. Sì. Il lavoratore della mente viene gestito, dovrebbe essere gestito soprattutto con la motivazione. E la motivazione non dipende soltanto dal salario. La motivazione dagli studi tantissimi disponibili dipende soprattutto dalla partecipazione alle decisioni, dalla responsabilità che si ha, dal rapporto fiduciario che si ha con i propri datori di lavoro, dall'agio con cui io riesco a lavorare attraverso telelavoro, attraverso tutto il resto. Cioè, occorre una modernizzazione. Quindi se non si vuole in ufficio tutta una serie di computer accesi su Facebook, bisogna saperli motivare questi lavoratori, altrimenti la produttività cede. Eppure, pensate, sono dati di marzo-aprile, ma penso poco sia cambiato. In Italia addirittura stanno aumentando coloro che rinunciano alla promozione, che preferiscono non avere lo stress della promozione per timore che poi in realtà anche il compenso monetario che si accompagna in genere a una situazione di questo tipo non vada a bilanciare il sacrificio che questa promozione richiederà. Torniamo al nostro headhunter Davide Cefis. Prima di tutto, come fate ad abbordare questi mega manager che dovete portare da un'azienda a un'altra? Sono figure professionali che in genere cambiano carriera e cambiano attività e cambiano compagnia molte volte nel corso della propria vita, e dietro questi cambi ci siete voi. Ma intanto noi siamo sul mercato da lungo tempo e quindi abbiamo maturato una conoscenza anche personale di molte delle candidature che suggeriamo. E poi con diciamo lo sviluppo di internet e dell'informazione digitale questo si facilita molto, nel senso che si è ovviamente molto evoluta una cultura della promozione anche dei vari candidati di se stessi, quindi abbiamo un database di oltre 300.000 nomi a livello internazionale che teniamo aggiornati, ma gli stessi candidati, gli stessi manager ci consentono di poter aggiornare inviandoci volta per volta aggiornamenti sulla loro professione, sul cambio di ruolo, di azienda, di responsabilità. E quindi diciamo che il mercato è un mercato che conosciamo, sia perché in modo proattivo, attivo, siamo a contatto con i candidati, sia gli stessi candidati, che possono essere numeri, come potete immaginare, enormi, ci mantengono così aggiornati, informati. Dopodiché, ma quando accettano il cambiamento di passare da un'azienda a un'altra, a quel livello, sono timidi nelle loro richieste salariali? Ci sarebbe da imparare un po' in sfrontatezza? Sono richieste esclusivamente salariali quelle che fanno? No, o sono mi ricollego a quanto diceva il professor De Masi, e questo anche alla luce della nostra esperienza, del nostro osservatorio, è coerente con quanto diceva lui. Allora, un tema importante è il tema della motivazione e della progettualità. Allora, il tema economico inizia ad andare in secondo piano, ovviamente dipende il candidato, se è un candidato che è sul mercato, un candidato che con diciamo la posizione che gli si offre fa un avanzamento di ruolo e di carriera, e quindi diciamo la forza negoziale è quello di metterli in condizioni di persone, un'organizzazione più complessa, un business magari internazionale, non solo nazionale, cioè dipende ovviamente dalla posizione che gli si offre e a cui è adeguato uno stipendio. Però diciamo che oggi la parte importante è il progetto, quindi i contenuti del progetto in termini di gratificazione personale. Quindi chiede soddisfazione, cioè non chiede solo il bello stipendio. Non chiede il bello stipendio, l'auto di lusso. Beh, stiamo guardando al vostro mercato che a volte da tanti altri viene visto come un mercato di persone privilegiate dal punto di vista salariale, ma lei ci sta confermando. Oggi si chiede solidità e soddisfazione, stabilità, possibilità di lavorare bene. Dico certo, bene. E anche oggi è sempre più difficile, poi bisogna distinguere tra aziende multinazionali, aziende italiane, imprenditoriali, e anche la capacità di poter interpretare il proprio ruolo con uno spirito imprenditoriale. Questo è importante, cioè di non essere un manager chiuso nei processi e negli organigrammi aziendali, ma di poter esercitare in libertà la propria capacità, la propria intelligenza nel gestire situazioni complesse e nel raggiungere i risultati richiesti. Spesso si parla dell'Italia come poco attrattiva e poco competitiva, e naturalmente la capacità, la possibilità di selezionare i leader, quelli che devono guidare questi processi produttivi, entra in gioco pesantemente sull'attrattività di un paese. Lei ha visto dei manager rifiutare destinazioni italiane? Anche pagate sì, bene. Certo. Sì, perché? No, certo, il tema è un tema che le aziende, ahimè, mancano ormai in Italia sempre di più le grandi corporation, grandi aziende che sono in grado di consentire a un manager di sviluppare una carriera all'interno di questa azienda, quindi la possibilità di arrivare in Italia e poi crescere all'interno di quell'organizzazione. Il secondo ruolo è il tema della relocation e delle famiglie, cioè i manager esteri che arrivano in Italia sono poi un po' abbandonati alla burocrazia e alla difficoltà di integrarsi nella comunità italiana. Permesso, cui, di soggiorno, certo, permesso di soggiorno, allacciatura del telefono dentro casa che non arriva, figli, le scuole dei figli, servizi, anche loro con un'altra nazionalità, certo, i servizi, la moglie, il marito non soddisfatti. Esatto. Una comunità che magari è poco internazionale, quindi tende a essere più provinciale, quindi la capacità, anche la possibilità di integrarsi, no, nella comunità locale, nel contesto, nella città in cui si è. Quindi non di solo salario vive la motivazione. In questa Italia però legata al lavoro precariato è sempre più incerto per la maggioranza della popolazione. Qualche incremento nella busta paga farebbe la differenza. Come chiederlo questo aumento? Su quali leve bisogna fare gioco? E soprattutto il fatto di non ottenerlo ha a che fare spesso o a volte con una scarsa consapevolezza del ruolo che svolgiamo all'interno di un'azienda? A voi è capitato invece, forse controtendenza, di ottenerlo quando vi siete seduti alla scrivania o del direttore o del capo delle risorse umane? 800 24 00 24 per le vostre voci. Intanto via SMS ci stanno dando delle indicazioni. Secondo alcuni bisogna ridurre drasticamente la forbice retributiva, soprattutto eliminando i privilegi. E dicono poi altri che non è vero, secondo loro, che manchino muratori e baristi, perché in realtà la disoccupazione è tale che questa situazione non si può verificare. Questo è segnalato da un SMS che arriva da Firenze e gli fa eco subito dopo un ascoltatore che non indica però né nome né provenienza. E invece è proprio così. È proprio così, ci sono dei buchi, diciamo così, nel mercato del lavoro, e lo sanno bene coloro che operano soprattutto nell'artigianato, che si fanno fatica a riempire. Sono dati di Confcommercio e anche di Unioncamere, quindi sono più di uno gli istituti che hanno rilevato questa tendenza. Domenico De Masi, sociologo del lavoro, e lei colloqui, si è mai trovato a farne per assunzioni? Ho fatto dei colloqui proprio nei giorni scorsi. Prima delle vacanze, perché cercavo un collaboratore, un ricercatore. 24 persone hanno risposto alla mia inserzione. Più o meno tutti. Che anni hanno questi candidati che lei ha sentito? Io chiedevo che fossero al di sotto dei 35 anni. E quindi dai, andavano, 26? Diciamo, dai 25 ai 35, sì, più o meno, quella fascia lì. E niente, ne ho trovati moltissimi preparati, ovviamente ne avrei assunto almeno una decina se avessi potuto, però per esempio quando io chiedevo qual è la vostra domanda di salario, di stipendio, per la prima volta mi è capitato nella vita di sentir dire spesso anche da ottimi giovani con due master per esempio all'estero, mi ricordo uno laureato alla LUIS con due master all'estero, mi diceva guardi c'è una tale carenza di possibilità di occupazione che mi accontento di qualunque cosa. Terribile. Quanto pagarmi e poi dopo se mi apprezzerà nel corso dei mesi successivi ne ridiscuteremo. È terribile, certo, però è il rapporto, come dicevo prima, tra domanda e offerta totalmente sbilanciata. Ma a ridurre una risorsa di questo tipo con due master all'estero, laureato, sì, a una frase di questo genere è veramente uno scempio della gioventù e delle opportunità che si sta facendo in Italia. Lei l'ha toccato con mano dovendo assumere questo giovane ricercatore, ma c'è anche un po' di mentalità italiana, cioè chi ha vissuto, chi opera e chi lavora all'estero nota una certa tracotanza, o tale potrebbe essere percepita dall'italiano medio, nel chiedere invece un riscontro salariale che i nostri talenti migliori, anche i giovani con i maggior titoli, ma anche persone più, esperte, spesso non hanno. C'è come un tabù sui soldi in Italia, per cui di soldi non si deve parlare subito, di soldi si deve parlare al secondo colloquio, è così? Beh, certo, siamo borbonici un po' in questo. Siamo borbonici. Il denaro ci sembra una cosa vile che soprattutto il lavoratore intellettuale non deve trovare. Noi veniamo fuori da una società che ha tenuto utile, che so, pagare bene i professori o pagare bene un conferenziere, perché si deve pagare molto di più un cantante o qualcosa del genere. Però spero che man mano sotto il maglio della crisi anche il rapporto tra valore del lavoro e valore della retribuzione si vada rendendo fisiologico. Io devo dire tanta tracotanza, le assicuro, non ho trovato. Ho dei miei laureati, ecco, per esempio se lei va al ristorante dell'Auditorium di Roma trova due miei laureati con cede 10 lode che fanno i camerieri. Sì, ma sono italiani? Sì, sono italiani. No, cioè, stavamo parlando di tracotanza percepita, perché quando si parla invece con i neolaureati stranieri, anche di 23 anni, è straordinario come abbiano una piena consapevolezza del loro valore economico. Pur avendo un curriculum di una riga, sono in grado di chiedere denaro, svolgere trattative senza alcuna timidezza, laddove invece i nostri o gli italiani arrossiscono. Per quello poi questo si traduce anche sulla pratica molto in uso, molto insomma vissuta senza grandi drammi, della richiesta d'aumento. Prima di lasciarla andare, Davide Ceffis, headhunter, lei ha mai visto qualcuno perdere una posizione perché aveva chiesto un aumento, perché chiedeva troppo in termini economici? No, quello no, onestamente no. Devo dire che ovviamente le richieste all'interno delle aziende vanno sempre motivate, quindi magari valorizzando i risultati, facendo vedere che il proprio team è motivato, la fidelizzazione è un aspetto importante, tenuto conto che oggi le aziende hanno strumenti per premiare la fedeltà del proprio manager e anche i risultati, c'è una componente variabile importante ormai nei pacchetti retributivi, quindi devo dire è molto difficile il caso, nel senso che c'è una componente variabile che va dal 20 al 50, addirittura al 70-80% a seconda delle posizioni, di premio annuale in funzione dei risultati che il manager porta a casa. Quindi questo comunque se uno fa una richiesta fuori budget, diciamo, chiede troppo, di solito se interessa come candidato viene scartato, si passa al prossimo o ci si siede e si parla? No, ci si siede. Parla, cioè i manager sono abituati a negoziare, devo dire, noi trattiamo responsabili delle funzioni centrali piuttosto che figure di top management, il tema economico. E quindi il suo consiglio a dipendenti che manager non sono, quando si parla d'aumento di soddisfazione salariale, è andare, bussare a quella porta e chiederlo o è meglio tenersi stretto ciò che si ha? No, io se c'è la sensazione, qui è anche un fatto di intelligenza emotiva, di senso di equità che uno deve avere, che il valore che uno sta creando per l'azienda, i risultati che sta portando, gli obiettivi, no, a cui che sta perseguendo sono in linea, non sono sufficientemente valorizzati. L'importante è che venga, ecco, quello che motivato è che vengano motivati, argomentato, cioè, gli americani dicono facts and figures, no, quello di motivare, sì, con numeri, con fatti, che apporto portato io e magari a questo metterlo sul tavolo. Grazie, grazie a Davide Cefis, torneremo tra pochissimo con voi. 800 24 00 24, ora il meteo. Salva Danaio. Ma lo sapete, ci scrive un ascoltatore, quanto sia frustrante una professionalità mortificata da retribuzioni da fame dopo decine d'anni d'esperienza? È Marco da Pistoia, a cui chiedo comunque... approvato, perché è quello che ci interessa oggi, poi a prescindere dall'esito, ma ha provato a chiedere, perché una situazione che certamente non porterà ad aumenti né salariali né a incentivi d'altro tipo, visto che sempre di più si ricorre al tempo libero, all'orario flessibile o ad altre forme di stimolo del dipendente che si vuole tenere in azienda. Ha provato, se può scrivercelo, può specificarcelo, a chiedere qualcosa in quella direzione, le è stato detto un no netto. Noi continuiamo intanto a ricevere questo tipo di segnalazioni, cioè su come si fanno i colloqui. Andrea, che ci scrive da Padova, dice che non dovrebbe essere permesso mettere soglie d'età quando si fa un'offerta di lavoro e crede che negli Stati Uniti sia già così. Infatti i curriculum lì sono fatti senza che si indichi l'anno di nascita e poi al momento della prima intervista o job interview, come viene chiamata, ci si incontra e chiaramente lì valutazioni sull'età, anche se non esplicite, vengono fatte da parte di chi assume. Chiedere l'aumento e non solo l'assunzione, questo è il discorso di oggi, o chiedere una retribuzione maggiore rispetto a quella offerta. È qualcosa di saggio, si può fare, perché parliamo tanto di lavoro flessibile, ma abbiamo un po' la mentalità da posto fisso, per cui sì, da una parte non si aprono i cordoni della borsa, o almeno l'azienda non lo fa, però nemmeno il lavoratore o la lavoratrice, in misura ancora maggiore, secondo le statistiche, si fa sentire. Andiamo in provincia di Chieti, dove c'è qualcuno che aspetta il telefono. Buongiorno, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Terry. Sì, Terry, mi dica, le è successo di ottenere un aumento? No, allora io volevo portare la mia esperienza. Quanto ho tentato di avere un aumento, perché come qualcuno prima di me ha detto, io ho presentato tutti i risultati che i miei anni di lavoro ho portato in azienda, l'azienda praticamente è stata cieca, ecco. Cioè ha detto no, è stato un no secco o l'è venuta incontro in una certa misura? No, addirittura sono venuti le promesse non mantenuti, però dal mio punto di vista, cioè esprimendo con i risultati in mano, l'azienda proprio è stata cieca e sorda. Sciocca dal mio punto di vista. Perché? Perché lei allora, se ne andrà. In conclusione, io vorrei, sono arrivato che i datori di lavoro, sì, non sono adeguati neanche a percepire non sono in un grado. Aumento che io l'ho chiesto, cioè mi è capitato più di un'azienda, praticamente non sono qualificati dal mio punto di vista, sì, sì, a giudicare il valore del dipendente che hanno. E soprattutto il contributo che porta, e questo è gravissimo per la competitività delle aziende. Terry, io non so lei in che settore lavori, ma in uno di quei settori in cui c'è mobilità, cioè lei è in grado, in seguito al no alla sua richiesta, di cambiare azienda? C'è mercato nel suo ambiente? Sì, perché allora io ho lavorato nel campo delle attrezzature, se potrei dire, ho preso l'azienda da terra, l'ho portata in cima. Sì. Quando ho cercato l'aumento, dopo 7 anni di lavoro, praticamente l'azienda è sembrata una cosa blasfema, non so, come se io avessi messo la bomba, no? Un aumento. Ho capito, Terry, grazie. Comunque, ottimo l'esempio di un dipendente che l'ha fatto. Andiamo a Genova. Renzo, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche a chi ci ascolta. Dipendente o datore di lavoro? Deve classificarsi perché sono due gli interventi. Lei, sì, da no, che parte in sta questo lei? Momento, in questo momento sono un datore di lavoro, oh. Purtroppo perché come dipendente stavo molto meglio. Ma per molti anni ho lavorato come quadro in diverse aziende e la strategia per ottenere un aumento, sì, devo dire alla luce dell'esperienza da tutte e due le parti, è intanto non chiederlo oggi, cioè definire un obiettivo a medio termine, diciamo nel giro di un annettino giù di lì, e concordare con col mio datore di lavoro definendo: io tra un anno conto di arrivare fin qui, in cambio ti chiedo questo qui. Questo dà due vantaggi: uno, che il datore di lavoro non deve tirar fuori dei soldi da un giorno all'altro, e questo aiuta. Cioè lei sta dicendo, mi scusi Renzo, in fase d'assunzione, diciamo così, accettare quella retribuzione che si concorda e poi dire: nel caso il risultato ottenuto nel mio settore sia, e io mi prefiggo di raggiungerlo, sappi che mi ripresento qui tra un anno e ne ridiscutiamo. Sì, non bisogna, perché il problema comunissimo è che il datore di lavoro non si aspetta di dover aumentare, anche perché aumentare lo stipendio, io ora parlo dal punto di vista del datore di lavoro, è un gioco pericoloso, perché una volta dato l'aumento è dato e non si torna indietro, qualsiasi datore di lavoro è più orientato a dare un premio, un qualche cosa dal quale si possa tornare indietro, perché il timore è sempre: io do questo premio, questo lo prende, l'aumento è definito e non recupererò più i soldi e non recupererò più quello che volevo tenere. Senta Renzo, ma lei è capitato di concedere un aumento e di essere stato contento di averlo fatto? Non la sento più. Le è capitato di darlo questo aumento a uno dei suoi dipendenti e di essere stato contento di averlo fatto? Contento sicuramente sì. Devo dire, io parlo soprattutto come dipendente. Spenga la radio, perché c'è un eco terribile, Renzo. Quindi dice, meglio il bonus, diciamo così un po' l'indicazione, meglio un compenso una tantum che aumentare lo stipendio, perché poi è un vicolo da cui non si torna indietro. Questo era l'input di Renzo da Genova. Per i vostri 800 24 00 24, da Padova c'è Enrico che dice... Lei cos'è? Un datore di lavoro, Enrico, o un dipendente? No, io sono un dipendente di una ditta e anche libero professionista per conto mio come geometra. Sì. E qual è il suo consiglio allora? Non chiedere? Io quando mi sono trovato in certe situazioni in cui non mi trovavo più soddisfatto della mia situazione economica in base allo sforzo che mettevo nel lavoro, quando o chiedevo, perché ero cosciente di quello che facevo, io ho visto che in linea di massima mi ha sempre riconosciuto. Se non mi veniva riconosciuto, in qualche maniera trovo un altro posto, trovo di meglio. Perché il rischio per l'azienda è la demotivazione dei dipendenti. Avere lì tanti seduti a fare poco forse costa di più che concedere quell'aumento richiesto a quelli meritevoli. Queste sono tutte capacità dell'imprenditore che altrove, o almeno oltre confine, vengono vagliate, valutate, discusse sui giornali, nelle radio come questa tutti i giorni, e di cui invece in Italia si parla poco, anche forse per la prevalenza del tipo di impresa che c'è, un'impresa di tipo familiare spesso, con un padrone padroncino che gestisce i dipendenti senza attenzione a volte alla soddisfazione o a tutto ciò che viene detto dal nostro sociologo, per esempio De Masi, che ci diceva: ormai la cosa importante per avere un dipendente che produca è la motivazione più che il salario. Dunque De Masi, abbiamo sentito vari stimoli e anche il nostro ascoltatore che dice: io ho sempre trovato qualcosa che mi soddisfava di più quando non ero più contento. Però questa è una situazione difficile nel mercato del lavoro odierno. È difficile avere l'asso nella manica della possibilità di cambiare, bussare a quella porta e sapere che se quanto chiesto non verrà concesso si potrà andare altrove. C'è poca mobilità in fondo in Italia. Ma lei cosa consiglia ai giovani? Meglio l'incertezza? Meglio magari impiegarsi in un settore che non è il proprio? Chiudere quella porta o tenersi stretto insoddisfazione, tenersi stretto ciò che si ha? De Masi. Beh, intanto la situazione italiana è un po' simile a quasi tutti i paesi occidentali dell'OCSE, cioè sono tutti in una situazione terribile dal punto di vista occupazionale, se ne salvano un paio, si salva il Brasile per esempio, che in questo momento ha sui giornali richieste di lavoratori intellettuali che non riesce in qualche modo a soddisfare. Io credo che ognuno di chiunque cerca lavoro dovrebbe cercare un'azienda in cui siano chiare le informazioni, perché è difficile chiedere un aumento se non so lo stato patrimoniale, stato economico reale della mia azienda. Io ho uno studio professionale in cui tutti e 10 collaboratori conoscono perfettamente giorno per giorno qual è la situazione economica e finanziaria dello studio. Per cui quando le cose vanno bene è chiaro che si è più incoraggiati a chiedere aumenti, ma prima ancora di farseli chiedere l'imprenditore li dovrebbe dare. Quando invece le cose si sa... Perché li dovrebbe dare, secondo lei? Perché è interesse dell'imprenditore dare questi aumenti? Se, come ha sentito da un altro nostro ascoltatore, una volta dati non si torna indietro, quindi costituiscono dei costi decisamente sostanziosi col costo del lavoro in Italia. Perché lei dice comunque interesse dell'imprenditore o di chi gestisce questa azienda dare gli aumenti? Vabbè, l'effetto motivante di un aumento dato è molto superiore a quello dell'aumento richiesto. Se un datore di lavoro spontaneamente, avendo capito bene che il proprio dipendente lo merita, dà l'aumento di stipendio, prima ancora che il dipendente lo chiede, ottiene un doppio effetto: migliora la qualità di spesa, diciamo, del proprio dipendente, ma in più fa capire che è attento al rendimento del dipendente, che sta a cogliere prima ancora che il dipendente lo chieda. Questo dipenderebbe dagli uffici del personale. Bisogna dire che in Italia altri settori, i dirigenti dei settori pubblicitari, finanziari, del marketing, hanno fatto grandi passi avanti. Io credo che invece la gestione del personale sia rimasta abbastanza indietro. Abbiamo appena terminato una ricerca su questo, i nostri capi del personale si sono specializzati soprattutto nei licenziamenti negli ultimi tempi, non nella motivazione, che è molto più difficile. E nel mantenimento di questa motivazione, perché a volte c'è all'ingresso in un'azienda e, stando invece alle statistiche, si perde del tutto nel giro di 3 anni. Poi stress e insoddisfazione prendono il sopravvento. Tornando invece alle retribuzioni, Andrea Panzeri, ci sono dei settori che fanno eccezione? Abbiamo visto si cresce, sono cresciute, ma di poco, diciamo così, 1,2%. Ci sono settori in cui c'è la possibilità di avere non solo uno stipendio, ma anche una sorta di sensazione di potersi muovere con soddisfazione in quel mercato? C'è qualche area in Italia che potremmo definire felice? Allora, dalle nostre rilevazioni, in un mercato appunto relativamente piatto, ci sono alcune aree professionali che si muovono più rapidamente. Le indicherà tra pochissimo, perché si sta muovendo rapidamente anche il traffico, mi dicono, sulle strade d'Italia. Dobbiamo andare a controllare la situazione, tra poco. Salva Danaio. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, le conclusioni, siamo all'ultimo segmento, sulla tematica che stiamo affrontando oggi, un periodo di crisi dove sappiamo la situazione del precariato nel mondo del lavoro è in continuo aumento e quell'altro aumento va in soffitta definitivamente, cioè la possibilità di un incremento salariale è qualcosa che una volta si chiedeva con più disinvoltura, oggi invece meglio non provarci nemmeno e tenersi stretto ciò che si ha. Ci sono delle aree felici, stiamo chiedendo ad Andrea Panzeri, cioè dei settori, dei segmenti di mercato in cui c'è mobilità in Italia? Scusi l'interruzione per il traffico, Andrea. Niente di male. Allora, queste aree sono, dalle nostre rilevazioni, sì, Information Technology, dove abbiamo tassi di crescita delle retribuzioni più alte. Quanto? Ma siamo nell'ordine, nel corso dell'ultimo anno, di circa un 6% in più di crescita, rilevato per le figure apicali dell'information technology. Che quindi sarebbero? Parliamo dei manager di quest'area. Per quel che riguarda invece, diciamo, posizioni professionali di livello inferiore, quindi ci riferiamo agli impiegati, le aree che vediamo crescere maggiormente sono quelle che afferiscono al controllo di gestione e alla finanza. E quando lei parla di aumento del 6% nella high tech, è un aumento determinato, immagino, dalla scarsa offerta, cioè si cercano più figure professionali di quelle che si trovano? Sì, è quello che credo abbiamo descritto bene con gli interventi di questa trasmissione. Lo stipendio, in ultima battuta, è un punto di equilibrio in un rapporto tra domanda e offerta. È chiaro che se in alcune situazioni la disponibilità delle professionalità richieste dall'impresa è inferiore o più scarsamente disponibile sul mercato, diventa più facile accedere a negoziazioni più felici, accedere ad aumenti di stipendio. Ma è anche vero che in un mercato poco meritocratico come questo è anche più difficile far riconoscere il valore economico di certe esperienze, di certe professionalità, perché a volte si riempie la posizione oltre che con l'amico, come ci segnala qualcuno, per il fenomeno del clientelarismo, con colui o colei che costa di meno. Osservate questo fenomeno? Allora, osserviamo anche questo fenomeno, nel senso che nei valori retributivi che vi abbiamo restituito è chiaro che si possono tra le righe leggere anche scelte che le imprese legittimamente possono fare di sostituire personale in uscita con valori retributivi più alti attraverso personale magari esistente o nuovo personale assunto dal mercato con livelli retributivi, appunto ancora una volta è un'opportunità di mercato che le imprese colgono, a livelli retributivi più bassi. Però anche per dare un messaggio di ottimismo, sì. Finora abbiamo credo ben descritto un contesto che è indubbiamente un contesto critico e che è un contesto che tutti coloro che sono impegnati nel mondo del lavoro è bene che conoscano. Però è anche un contesto che non ci deve deprimere, quindi secondo noi resta l'opportunità e la responsabilità individuale di ricercarsi le migliori traiettorie di crescita. Quindi non accettare, questo è il suo consiglio, non accettare tutto, né in termini salariali, siamo partiti dall'aumento, ma naturalmente le richieste di soddisfazione si declinano anche con altre voci, non accettare tutto e cercare di realizzarsi. Questo è il consiglio di Panzeri. E i vostri 800 24 00 24, andiamo sull'Adriatico ad Ancona. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Sì. Senta, io volevo rappresentare tutte quelle categorie che sono intercambiabili, cioè l'ultimo anello della catena o di montaggio o di tutto. Cioè io faccio un lavoro semplicissimo, come potrebbe essere un operaio che fa il montaggio, un operaio alla macchina, allo stampaggio, io raccolgo rifiuti speciali all'interno di un ospedale. Il mio lavoro è intercambiabile, cioè io lo faccio bene, sì, però a livello pratico per impararlo non ci vuole di più o di meno di una settimana. E con un mazzo di centinaia di curriculum, di richieste di lavoro, io come faccio a richiedere un aumento? Cioè il mio datore di lavoro, ovviamente se parliamo di quadri, dirigenti o persone che hanno bisogno di una qualifica, è un conto, però nei lavori miei, come penso sia più del 50% dei lavoratori. Cioè lei non si sente nella condizione di dare, di ottenere un aumento, perché se lei fosse il datore di lavoro, lei a se stesso non lo darebbe. No, ho colto. Nel senso che se sì, cioè lei per questa mansione dice pago 800, 1000, 1500... Chiedo, ma dal momento che la mia non è una figura fondamentale, cioè più che no, lo è, fondamentale direi che lo è, più che altro dice non richiede, non è specializzatissima. Non sono specializzato, però io sono a tempo determinato e praticamente. Ma lei ci ha provato o no a chiederlo questo aumento? Mi sembra di capire, sì, no? Mi è stato sì. Rifiutato, però nello stesso tempo pressione, perché io in qualsiasi momento, a scadere il mio contratto, il mio datore di lavoro potrebbe prendere altre 2000 persone come 2000. Ho capito. Dico, lei non si sente per niente insostituibile, però vede Francesco che comunque il passo l'ha fatto, cioè l'aumento è andato a chiederlo, l'è stato rifiutato, ma non si è fatto intimidire dalla possibilità di essere sostituito. Grazie per questa esperienza, testimonianza condivisa. E ci sono invece datori di lavoro che apprezzano il fatto che qualcuno questo aumento lo chieda, perché significa che è una persona consapevole, che è una persona che soprattutto ha consapevolezza del contributo che sta dando all'azienda. Ora, ci sono i soliti naturalmente SMS sugli stipendi assurdi che l'Italia elargisce ai politici per nulla meritevoli, e sono più che sottoscrivibili naturalmente. E poi c'è qualcuno che ci dice, questo è Massimo da Udine, che gli aumenti in realtà non motivano, gli aumenti sono solo per i dipendenti pubblici e per gli statali e vanno chiesti, ci dice Gianni, solo nelle aziende nelle quali non comanda la compagna del titolare. Questo è un riferimento alla particolare struttura familistica di certe situazioni che rende poco professionale anche il rapporto con le risorse umane. Franco da Roma, buongiorno, riusciamo a dar voce anche a lei? Buongiorno. Sì, lei è un imprenditore, buongiorno. L'ha dato qualche aumento? Sì, no, perché? È meritocratico, mi spiego, cioè? Meglio. La mia è una piccola e media azienda che si occupa di servizi di assistenza per le abitazioni e le attività commerciali, quindi sugli impianti elettrici, aria condizionata, caldaie, eccetera, eccetera. È un'azienda che si muove da 15 anni sul settore che ho appena detto e è un'azienda che apprezza molto, anzi quasi esclusivamente, le persone che sanno mettersi in gioco, in discussione e portare dei risultati. Quindi, per quanto mi riguarda, diciamo, un aumento o la retribuzione dei collaboratori deve essere commisurata in modo particolare alla specializzazione e al fatto di poter portare un valore aggiunto all'azienda. Quindi lei li ha fatti, ha fatto questa mossa anche spontaneamente nel corso della sua vita professionale. Sì, diciamo, ma io le devo fare un'altra domanda. Sì. Quando si è trovato qualcuno che ha bussato alla porta e è venuto a chiederle questo famoso aumento, lei come l'ha giudicato? Le è mai capitato di giudicarlo male? Come spesso il lavoratore teme, in Italia il lavoratore teme di essere giudicato male se chiede di più. No, perché mai, senza nessun preconcetto, per un semplice motivo che i collaboratori possono essere tanti e con diverse situazioni familiari e per questo vanno comunque analizzate, perché a volte ci sono delle situazioni, diciamo, più o meno importanti, per non dire drammatiche a volte, quindi se c'è da fare uno sforzo in più per una situazione particolare, il diciamo così, dipendente o collaboratore ha si trova in una situazione così che lo mette anche in disagio verso l'azienda, verso anche il fatto di essere sereno. Quindi diciamo, su di lei fa presa la situazione personale del dipendente. Avete sentito anche Franco da Roma. E sconsigliano invece le società che si occupano proprio di queste cose di far leva sulla questione personale. Quando ci si siede al tavolo a chiedere l'aumento, bisognerebbe in maniera impersonale parlare solo di numeri, di contributo che si è dato all'azienda, di affari che si è riusciti a fare grazie alla propria presenza e non mettere in gioco invece la propria individualità. Arriveremo forse ad aziende sempre più di numeri e sempre meno di persone, Domenico De Masi? Ma spero proprio di no, perché le attività deprivate di intelligenza, di creatività, eccetera, vengono sempre più delegate alle macchine. Noi abbiamo macchine che sono capaci di svolgere ormai attività anche abbastanza complesse e quello che resta agli esseri umani è prevalentemente o il servizio alle persone che richiede grande sensibilità oppure attività di tipo creativo. Quindi comunque anche dal tono degli SMS che ci sono arrivati nel corso di questa trasmissione si è pervasi da un grande pessimismo nel mondo del lavoro e secondo lei c'è ragione di averne o vale la pena di rimanere speranzosi e pensare che ci si possa anche realizzare a livello professionale nella vita? Guardi, siamo di fronte a una forbice. Da una parte occorreranno sempre più attività superiori di carattere creativo, di carattere motivante. Dall'altra però dobbiamo ormai capire che il lavoro è una merce che scarseggia in tutto il mondo avanzato, in tutti i paesi dell'OCSE. Abbiamo imparato a fare sempre più cose con sempre meno lavoro, questo che poteva essere un grande salto di civiltà se avessimo ridistribuito il lavoro a tutti, è diventato invece una iattura perché i genitori fanno... È uno strumento di ricatto. Grazie, sì. Grazie anche a Domenico De Maso, a tutti voi che avete partecipato, da Irene Zerbini, Salvadanaio, torna domani.